24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Come Lega ci ostiniamo anche ieri a Cernobbio a non fare immagine, quindi a non fare i selfie col ministro Boschi, seppur assolutamente gradevole. Niente selfie con la Boschi. Questo è il messaggio di Matteo Salvini, che è il leader della Lega. Niente selfie con la Boschi, seppure gradevole. Ah ah. E vabbè. Matteo Salvini, ma che mi combini? Allora, dopo la Corea del Nord, adesso dice no ai selfie con la Boschi. È impazzito Salvini. Voglio subito chiederlo a Aurora Lussana, è impazzito il tuo segretario. Cara Aurora, come stai? Direttorissima! Che? Ma buongiorno, ma che Milano, un saluto a te. Ma che stai ascoltando? Le cornamuse scozzesi? E non si può. Vabbè, e la mattina io guardo Brevard, non so te. Quindi un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di Radio 24. Ma ci sono le cornamuse scozzesi e non. Ci sono le cornamuse veramente a casa tua? Sì. Dove vivi? In una caverna, spero. Ma fammele sentire, ma avvicina. Ma che è stara? No, vabbè, la colonna sonora di Brevard. Ah, cioè, Brevard, mi sembra giusto. Scozia libera, Scozia indipendente. Sì. Oh, iniziamo così. Cos'è che hai detto? Padania libera? No, Alba libera, non Scozia. Alba libera. 6:35 minuti, Brevard Aurora Lussana che si sveglia con... Ma cos'è, nel telefonino la sveglia oppure proprio lo metti in filo diffusione in casa? Eh no, certo, per motivare i militanti. Comunque no, sì, il segretario federale Matteo Salvini è andato a Cernobbio. Sì. A Cernobbio. Sì. E davanti al gota della finanza, sì, insomma, ha lanciato il manifesto economico della Lega. Ah, ecco, tra poco ce lo dirai, che siamo tutti orecchi. Però aspetta, prima devo salutare Miriam Lucchetti in redazione, Peter Mescapè in regia, il Parlamento che apre alle 6:36 minuti. Dai, apriamo questo Parlamento e via. Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. È proprio lei, ministro Boschi, che va a prendere il caffè. Caro Vincino, hai visto? Adesso c'è il nuovo corso e quindi è il ministro Boschi che va a prendere il caffè. Meravigliosa ministra. Sì, sì. Io sono un fans sfegatato del ministro Boschi. Sei un fans, sei fans. Due in uno, sei un fans. Assolutamente. Sei conformista però. Eccolo. Vabbè, è conformista, le piace una bella, gli piace una bella donna. Adesso. Nell'era della Boschi, mangia Boschi. Ma adesso, la donna Petra, la donna angelicata. Ma dai, su, ma scusa, Vincino, piace il ministro Boschi, è una bella donna. Solida, brava, ha portato riforme velocemente, contro un sacco di delinquenti abituali che così che cercavano di fermare il cammino delle riforme. A proposito, Vincino, non ti ho mai chiesto un giudizio, caro Vincino, un giudizio serio, politico, tu che dai sempre giudizi un po' lievemente trancianti a volte. Vabbè, il giudizio estetico l'abbiamo capito, ma il ministro Boschi, in quanto ministro, sì, che pensi? In quanto ministro di che? No, beh, dai, su, in quanto, dai, non fare, fare il bravo. Ministro per le riforme, per l'appunto. Ministro per le riforme, lei prova a fare quello che si può fare con quelle schifezze di materiali che ha davanti. Che ci possiamo Ma fare. Chi sono il materiale? Il che materiale è qui. Primo è il materiale dell'accordo là, di quella cosa là che avvenne al Nazareth. Sì. E secondo col materiale con quei senatori là, con chi, con quello, okay, che devi fare? Insomma, Che fine avrà fatto? È scomparso totalmente. Mamma mia, approvata la riforma del Senato al Senato. Basta. A Mondello non si è visto quest'estate. Ah, perché siete vicini in vacanza? Ma noi ci conosciamo da quando avevamo 12 anni praticamente, quasi di casa siamo vicini, insomma vabbè, lasciamo perdere. Comunque c'è il manifesto economico della Lega, Vincino, qua non è che si può. Aurora Lussana, il manifesto economico della Lega prevede i seguenti punti. Numero 1. Via gli studi di settore. Numero 2. Soffocano i nostri piccoli imprenditori. Numero 2. Aliquota unica al 20%, la flat tax, funziona in tantissimi paesi, ha lanciato la Russia e la Polonia, quindi insomma anche lì facciamo respirare. Noi come la Russia e la Polonia, infatti Salvini anche dopo la Corea del Nord andrà in Russia. Credo, la Cecoslovacchia, l'Irlanda, sulla flat tax è da 25 anni che siamo d'accordo. Non è Va bene, vedi, Vincino si riscopre leghista. Numero 3. No, io vado avanti. No, finché ci... Assista, non c'entra niente, la Lega l'ha scoperta ora. Aurora, copioni. Poi, cancelliamo la riforma Fornero. 3, cancellare. Poi 4, io vado avanti, non so quanti punti poi, sono. 5. Per fantastico. 4. Poi tassare la prostituzione. Chi sceglie liberamente questa professione, chi vuol fare sex worker, quindi ripeto, libero. Tassare la prostituzione, una scelta libera. E anche qui, vedete, Vincino si riscopre leghista già in 2 punti su 5. Sulla prostituzione, come dire, che possiamo dire? Assolutamente. Io credo che tassare la prostituzione sia la cosa per la quale... No, ecco, adesso io credo che l'80% degli italiani, se si facesse un referendum, referendum sarebbero d'accordo. D'accordo, sì, tranne quelli che vogliono l'abominevole spettacolo che vediamo nelle nostre strade, quelli perversi. Vabbè, non è che questo fermerebbe del tutto. Abominevole, poi a volte sono delle strade così squallide che invece sono. Vabbè, numero 5, dai, il quinto punto. Tutela del Made in Italy, il contrasto al falso Made in Italy. Che ci fa un danno di 70 miliardi. Ho capito, ma miliardi. Scusa, è fuori dall'euro dove è finito? Ma no, ma quello è la sovrastruttura monetaria, questo poi da cui discende questa diciamo proposta strutturale, ma la sovrastruttura ovviamente la sovranità monetaria e l'abrogazione della Mare Nostrum. Ok, vabbè, e in tutto questo libera stamattina. No, infatti. No, voglio subito, infatti Vincino, rientriamo nei ranghi, appunto, siamo Radio Padania Libera. Montezemolo. No, vabbè, allora, se vuoi scegli un argomento di quelli che secondo te ci sono sui giornali. Ti piace Montezemolo, non lo so. Arriva Marchionne di corsa là a Modena, dove era, e là perché siamo tutti noi che ogni ora usciva con una Ferrari nuova. Usciva con una Ferrari nuova. Dice: scusi, lei, ma 35 Ferrari in un giorno se l'ha portato via questo qua. Ma chi Montezemolo? No. La buona uscita. Cioè, bisogna fermarlo qua, se no abbiamo proprio storiche poi addirittura, quelle proprio del 63, del 920, no? Ferrari meravigliose. No, ho letto sul Sole 24 Ore, si parla di una buona uscita di 50 milioni di euro. Questo è. E ho letto invece sul Corriere della Sera che per Montezemolo si prospetta forse la presidenza della nuova Alitalia. Vabbè, ma insomma, questo staremo a vedere. E invece pare Marchionne stesso presidente della Ferrari. Quindi c'è tutto un giro. Sulla stampa si legge tutto chiaro. Vai a leggere la stampa, non capisci niente. Vabbè. Ma come può essere ancora nel 2014 che la stampa non può parlare di cose Fiat, di cose Ferrari, cosa senza dire baggianate così, ipocrisie e quell'altro? Ma dai, c'è un giornalista oggi vero, serio, che alla stampa che dica: ma vaffanculo, Vincino. Ma no, ma guarda che è una cosa insopportabile questa cosa. La stampa è dal 1950 che se c'è un incidente non c'è mai una Fiat in mezzo. Oggi Vincino si è svegliato invece che contro la politica. La stampa sono andato a leggere la stampa per capire questa cosa di Marchionne, e non hai capito. La storia che tutte le Ferrari che uscivano e nessuno non l'hai trovata. Fa satira, come sapete, fa satira. Invece Aurora Lussana, allora, la politica italiana, mamma mia, è ingarbugliata con questa cosa. Cioè, la dichiarazione più politica del giorno è Fassina che dice: attento Renzi, non ai gufi ma agli struzzi. Ecco, questo è il massimo del livello della politica. Ma c'è tutta questa paranoica e junghiana ossessione del volatile, dell'ornitologia, dell'uccello, non lo so, c'è tutta questa roba qui. Ma chi c'ha l'ossessione dell'uccello? No, sarà una proiezione del loro io. Eccola. E poi, no, ma scusa, ma perché Vincino è d'accordo sulla proposta della Lega e poi non mi mando ogni tanto una vignetta? Io c'ho un bravo vignettista. Dai Vincino, paga, una vignetta. Manda bonifico Vincino, manda vignetta subito. Vincino è per il mercato moderno. Tac tac. Tac tac. Guarda, basta Libano. Vuoi la farmi lavorare a gratis? Siciliano deve lavorare a gratis per noi. È il colmo dei colmi. È il colmo dei colmi. Dai Aurora, un siciliano che lavora gratis. Per i padani. Dai. Ma senti un po', Aurora, ma non l'ho capita questa cosa, al di là delle cornamuse, ma che te frega della Scozia indipendente? Cioè non è che adesso la Scozia, se diventa indipendente, allora anche la Padania, ma sono due statuti diversi, due robe diverse. No. Chi è un vero autonomista, chi crede nell'autodeterminazione dei popoli, nella sovranità dei popoli, festeggia tutte le volte che un popolo sceglie l'autodeterminazione. E ogni nuova nazione che nasce è una speranza. Io credo che questo modello scozzese possa essere un riferimento per l'indipendenza veneta e lombarda. Vincino, ma non ti senti un po' commosso? Scusa, loro c'hanno la regina, gli hanno fatto fare il referendum. La tua adorata Boschi, questa donna angelicata. Tua adorata di chi, di Vincino? È vostra. Ma vostra chi? No, cosa hanno fatto? Hanno impugnato il referendum per l'autonomia del Veneto e della Lombardia. Gli scozzesi combattono per il loro residuo fiscale, non possiamo farlo noi Lombardia e Veneto, ma fai le battaglie che vuoi, però non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, cioè non è che puoi fare un referendum per l'indipendenza, vorresti? Ma perché tu saresti contrario a un referendum che chiede ai veneti di far diventare la regione Veneto autonoma, non so, sul modello dello statuto siciliano che trattiene il 100% delle imposte? Ma è un'altra cosa l'autonomia, un'altra regione autonoma, è un'altra regione autonoma. Non credete che sia... Io sono per le cose nette, o si vota l'indipendenza, si stacca lo Stato, oppure... Un territorio coeso, bello, triangolare, tutto suo, no? O se no il cavolo, che il Veneto dove finisce, dove cammina, che Vincino vuole entrare in Trentino. Ho capito, ma da siciliano temi già di perdere il Veneto, Vincino? No, che ti paga con le tasse. Io sono felice, guarda, il giorno dell'indipendenza siciliana quelli fanno la festa in Padania per noi, sono contento, grazie, gli mandiamo un ambasciatore, tu facciamo una vignetta gratis. Scusa, ma la Scozia c'ha la sua bandiera, c'ha la sua storia millenaria, ma potrà essere uno stato autonomo indipendente, sceglierà magari anche la sovranità monetaria, c'ha dentro private, fuori dall'euro, l'euro dentro fuori la sterlina, ma insomma, ma io applaudo quando un popolo può votare autodeterminato. Vabbè, ma adesso decideranno, tra 9 giorni è arrivato anche il Royal Baby, il secondo Royal Baby, l'annuncio per cercare, non ho capito bene perché, cioè o prendono gli scozzesi per degli idioti oppure hanno scritto, ma è da 2 giorni che mi interrogo sul perché, l'annuncio del Royal Baby potrebbe cambiare le sorti del referendum. Cioè, cos'era? Un popolo di mentecatti? No. Che cos'è questo? Ah, God Save the Queen, ascolta. Aurora, tutti gli scozzesi dovrebbero cantarlo. Altro che le tue cornamuse, eh? O no? Mamma mia, l'abbiamo buttata in depressione. Dai, andiamo al traffico. No, lo so che sei un unionista, te lo so. Ma che ne sai tu, l'unionista? Andiamo al traffico, va. Io glielo dico da amico. Allora, andate in Corea e vi divertirete. 24 mattino. Il ragazzo a cui hanno sparato, che erano in 3 in motorino, e ha sparato i carabinieri. Ma perché c'è sempre questo accanimento mediatico contro le forze dell'ordine che hanno soltanto cercato di far rispettare la legge a 3, di cui 2 probabilmente pregiudicati, non sono fermati al posto di blocco? Ma perché? Renzi sta facendo una bella cazzata, perché dovrebbe distinguere fra statali e statali. Ci sono un sacco di culoni che pigliano 2.000 euro al mese e non fanno un cazzo, stanno seduti su una sedia. A quelli casomai lo stipendio va ridotto, ai poliziotti, ai carabinieri, a quelli che dovrebbero garantire la nostra sicurezza, gli stipendi vanno aumentati. reddito di cittadinanza, eliminazione di ogni forma di assistenzialismo, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, licenziabilità dei dipendenti statali. Così facendo abbatteremo il debito pubblico, si abbasserebbero le tasse sul lavoro, ripartirebbero i consumi interni. Corri che devi leggere i giornali, Alessandro Milan, corri! Sto tornando adesso dalla Germania, dove è tutto pulito. Sono stronzi, ma è tutto pulito. Noi siamo simpatici, ma è tutto sporco. Togliamo gli stronzi, togliamo lo sporco e puliamo. Vincino, hai visto le ricette? Ma è semplice, gli italiani ce le hanno le ricette, no? Assolutamente, nessuno che capisca niente. Mamma mia. Tutte le stupidaggini, in luoghi comuni, tutti papa, oggi te l'hanno telefonati tutti a te, guarda. No, ma dai. Sì, guarda, ma no, uno ma simpatico, no. Quelli là, Zappaco, quelli simpatici non ci stanno più. Ma chi, Azzave, lo zappatore? Lo zappatore di te. Lo zappatore. E allora ascolta, ascolta. Zappa ci vuole, la zappa da 7 chili, a Zappalucambo da la mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Eccola là, la ricetta, ah. La ricetta, ti piace questa? Zuppa onion, stupendo, la zuppa di cipolla, poi, meravigliosa. Vabbè, vabbè. Allora, vorrei, no, prima vi faccio sentire la Boschi, eh? Dobbiamo cambiare l'Italia, non essere simpatici, così Aurora Lussana la smetterà di criticarci, eh? Io credo però che il compito di questo governo, il compito che si prefigge questo governo non è quello di rimanere simpatico qui o simpatico in altre sedi. Il compito di questo governo è quello di cambiare l'Italia e noi sappiamo che non ci sottrarremo a questa sfida. Cioè adesso io, Aurora, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma l'hai sentita che bella voce? Meraviglioso. Mamma mia, proprio l'Italia è il luogo, sì, dove si suona, no? Cioè, se, sì, professore. Cioè, ma con questo toscano un po'... È una dizione meravigliosa la ma sua. Ma guarda che... ma no, veramente... No, lo so. Vabbè. Comunque, mentre Renzi una settimana fa annunciava i 1000 giorni, sì, col suo ballo del bla bla bla, in realtà noi settimana scorsa sulla Padania raccontavamo, sì, di Maroni che dopo Zaia annunciava invece gli ambulatori aperti in Lombardia. Concretezza lombarda. Vincino, hai capito? Fammi dire qualcosa di leghista. Hai capito, Vincino? Così. Finalmente ha detto qualcosa di leghista, perché per ora in tutte le puntate mai un accenno alle questioni leghiste, eh. Finalmente anche Aurora Lussana. Dai, quelli lì sono lì coi 1000 giorni, coi tweet, vabbè, alle casse. No, 1000 giorni. Allora io vi voglio chiedere questa cosa. Con il linguaccio lì, guapa, lì, tutti gli spagnoli lì che sono in rivolta, perché poi... Ma no, no, vi voglio chiedere questa cosa perché ho 3 minuti, il tema è molto delicato, ne parleremo alle 8, ci sarà anche il sindaco De Magistris, quello che è successo a Napoli. Allora, Vincino, tu puoi, certo, dillo. Che non esiste il carabiniere che cammina con la pistola in mano, così. Oh, ma che cosa vuoi fare? Una volta che che fai? Oggi il carabiniere a Repubblica dice, attraverso il suo avvocato, chiedo perdono, è stato un incidente, stavo inseguendo un latitante, o quello che pensavamo fosse un latitante, è partito questo colpo. Ora poi... staremo fate come in Inghilterra, come Bobby con il manganello, senza pistole al manganello, ma dai, in certe situazioni però insomma, anche tu, te, che cosa gli fai? 3 ragazzini con la pistola, che gli fai? Fai la sparatoria? Sei ubriaco? No, ma non è che devi fare la sparatoria, però allora perché devi uscire con la pistola in mano a correre e saltare i balconi come si è visto in televisione? Ma là? Perché in certe situazioni, in certi quartieri, dai, me lo insegni, no, tu la pistola ci vuole, nel senso che ci vuole a tenerla pronta, ci vuole per fare le stragi, sì, ci vuole per ammazzarsi, è come il rapinatore entra in banca con la pistola, no, non si fa, no. Aurora sì, che dire, hai... cosa vuoi, no, dire? Ecco, dai, dimmi la tua. E così si sentono minacciati dallo Stato e da chi ha una divisa, si sentono probabilmente minacciati da chi rappresenta l'ordine pubblico e così probabilmente si sentono rappresentati da altri enti territoriali, chiamiamoli così. Vabbè, dici,

sui vestiti, sul messaggero. Vabbè, la carta costa, ma non se ne accorgono. Perché sei così incazzato? 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8 e 18 minuti. In quest'istante, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vogliamo parlare della tragedia avvenuta a Napoli qualche giorno fa, ormai lo sapete, con l'uccisione di Davide Bifolco, 17 anni, per un colpo di pistola sparato da un carabiniere. Quel carabiniere che oggi, nelle prime dichiarazioni che vengono affidate a Repubblica, chiede perdono con pudore. Come scrive Concita Sannino, si dice addolorato e voglio dire alla famiglia di Davide che chiedo perdono per questa perdita, consapevole che niente, nessuna parola potrà attutire il dolore che segnerà per sempre anche la mia vita. E poi continua questo militare, 32 anni, cresciuto in un paese contadino della provincia campana. Questa tragedia è stata la conseguenza impensabile, umanamente inaccettabile, di un incidente, solo un terribile incidente. Non ho mai puntato la pistola, ho alle spalle oltre 10 anni di lavoro anche a Verona. Sono inciampato mentre bloccavo l'altro giovane che si divincolava e se si fa una perizia si vedrà che c'è un gradino. Insomma, parla di incidente nel momento del fermo di 3 persone. Vogliamo parlare di questo, di questa morte tragica che è deflagrata in un mare di polemiche. Ne parliamo con rispetto innanzitutto perché c'è un ragazzo morto, ricordiamolo, ma anche senza tralasciare, se volete, considerazioni scomode e magari non ipocrite che bisogna farsi. C'è stato un quotidiano, Libero, che qualche giorno fa ha titolato all'indomani di questa tragedia: prima del carabiniere l'ha ucciso Napoli. Certo, una provocazione terribile, molto forte, il cui significato però forse sentite anche i giorni scorsi il vice direttore di Libero ai nostri microfoni. Era questa forse un certo modo di vivere, pensando che si può andare in tre in motorino senza casco, che si può forzare un posto di blocco perché in alcuni quartieri, in alcune zone d'Italia si fa così. Forse è un modo di pensare che certo, assolutamente non deve mai portare alle conseguenze che si sono poi prodotte, ma può generare delle situazioni che possono poi, come dire, ci si mette nei guai e poi le situazioni come le tragedie alle volte purtroppo avvengono. Comunque ne vogliamo parlare con intanto l'avvocato della famiglia Bifolco, Fabio Anselmo. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Così buongiorno. Come voglio salutare Luigi Bobbio, che oggi è giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, ma è stato anche senatore ed è stato sindaco di Castellammare di Stabia. Buongiorno, dottor Bobbio. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, intanto, avvocato Anselmo, le ha sentite anche lei le prime dichiarazioni di questo carabiniere che parla di incidente, di questa ricostruzione? So che voi state portando delle testimonianze, delle foto. Avete fatto anche questa azione di mettere la foto del cadavere. Magari partiamo da qui. Perché questa scelta scioccante di pubblicare le foto di Davide? Ma guardi, questa è stata una scelta della famiglia, è stata pubblicata sulla pagina di Facebook. E devo dire che è una scelta che io posso comprendere, perché proprio come diceva lei nel cappello iniziale di questa trasmissione, il pregiudizio l'ha fatta da padrone rispetto alla valutazione di questa tragedia. Probabilmente l'intendimento della famiglia è dire, far vedere a tutti, stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di camorra, non stiamo parlando di contesto degradato, ma stiamo parlando di un corpo di un ragazzo di 16 anni che è stato trapassato da un proiettile. Certo, però quello è il fatto indiscutibile, cioè quello è successo. Certo, ma vede, il problema è la spersonalizzazione della vittima in questi casi, mi capisce? Cioè, al momento in cui viene ucciso un ragazzo di 16 anni, tutte le varie considerazioni si accentrano quando purtroppo le tragedie si verificano in questi contesti, e qui ovviamente faccio un discorso anche di carattere generale, tutte le considerazioni si concentrano su argomentazioni, su contesti di carattere generale, perdendo di vista poi un pochettino quello che è il tema vero della questione. Il tema vero della questione è come è morto Davide, punto. Napoli degradata, tutto quello, cioè, sono tutte considerazioni che a me come avvocato sinceramente lasciano indifferenti, come mi lasciano indifferenti i servizi giornalistici che riportano versioni ufficiali che non provengono dalla procura. Per me la versione ufficiale è quella della procura, non è quella dell'arma dei carabinieri. La versione invece, cioè le dichiarazioni di questo carabiniere, lei come le accoglie? Al di là, guardi, umanamente, della scelta del perdono, sulla quale, guardi, su questo c'è una vocazione molto italiana, vuole sfruculiare su queste cose che sono cose molto personali, e se la vedranno la famiglia se uno vuole perdonare, eccetera. Ma le dichiarazioni sull'incidente, sul colpo partito per sbaglio. Ma guardi, le dichiarazioni sull'incidente, chiaramente, cioè, l'indagato ha diritto di dichiarare ciò che vuole, sia all'autorità giudiziaria che alla stampa. Chiaramente non si può non accogliere con favore un atteggiamento chiaramente come quello espresso, che lei mi riferisce, che io non ho ancora potuto leggere, su Repubblica da parte dell'indagato. Io lo chiamo indagato perché chiaramente la legge è uguale per tutti, e chi è sottoposto a indagine è indagato, indipendentemente dal fatto che, diciamo, porti una divisa o meno. Per quanto riguarda la meccanica ricostruttiva, noi abbiamo raccolto alcune testimonianze. Che smentiscono, diciamo, questa smentiscono. Ma la ricostruzione, diciamo, io non la voglio valutare in questa sede, però, diciamo, il quadro che ne emerge è un quadro diverso. Poi dopo spetterà l'autorità giudiziaria a valutarlo. Mi dica se è possibile, ovviamente, dirlo pubblicamente, in sostanza queste testimonianze che cosa riferiscono? Ma guardi, io, diciamo, sto depositando il fascicolo e lo deferò oggi pomeriggio alle 15 alla Commissione dei diritti umani, diciamo, quando incontrerò il senatore Manconi e De Cristoforo. Dopodiché stiamo verbalizzando e raccogliendo le deposizioni registrate e formalizzandole in modo consono, ovviamente, cioè le stiamo fascicolando, e poi le consegneremo alla Procura della Repubblica di Napoli, per la quale nutriamo la massima fiducia. Diciamo che leggendole emerge un quadro nettamente diverso. In cui, però, proprio lei può... No, ma io non sono giudice. No, è chiaro. Sono, ma sono avvocato, certo. Raccolgo, se mi dica solo poi... questo, che sì. Poi vorrei coinvolgere, sì, Luigi Bobbio. Secondo, sì, queste testimonianze si esclude l'ipotesi di un incidente che invece... Ma guardi, io non faccio valutazioni. Le dico che emerge un quadro diverso e spetteranno i giudici, chiaramente, di fronte ai quali ci sarà una dialettica processuale, ci sarò io, ci sarà l'avvocato dell'indagato, ci sarà il pubblico ministero, e rispetto a questo poi faremo le valutazioni. Certamente quello che il quadro è diverso, testimoni, questo, ecco, è questo. Quello che voglio dire, testimoni non soltanto i due ragazzi che erano sul motorino, ma anche quelli che hanno visto incensurati con un lavoro regolare, quindi non è che c'erano sono intorno. Testimoni, non è che sono tutti testimoni di camorra, insomma, diciamo, perché qualcuno l'ho sentito fare delle affermazioni di questo genere che francamente mi hanno lasciato un pochettino. Allora, io vorrei, Luigi Bobbio, lei su Facebook è stato molto duro in un giudizio che peraltro ha confermato, non ha assolutamente smentito, a dire la vera vittima di tutto questo è il carabiniere. Lei conferma, sì, insomma, questa versione, e perché si è spinto a dire questo? Sì, io solo confermo quello che ho scritto, con una doverosa premessa, perché poi Facebook, si sa, è un po' il regno anche delle propalazioni o dei commenti che a volte stravolgono la realtà delle cose che vengono dette. La premessa è che chiaramente una vita umana, per chi più giovane, si è persa, e ovviamente nessuno può esultare per questo o può essere contento, anzi il rammarico e il dolore sono di tutti. Però non ci si può esimere dal valutare, io non sono la controparte di nessuno, ho espresso il mio giudizio da cittadino, seppure con un certo grado di esperienza in una serie di settori complementari a quello che riguardano la vicenda in questione, non ci si può esimere però dal considerare questo episodio in una chiave anche emblematica del contesto nel quale è maturato. La giustizia e la legge faranno il loro corso, la Procura di Napoli farà, come sempre abituata a fare, le sue scrupolose e attente indagini, e si verificherà se si è trattato di un episodio colposo, come le cose portano in qualche maniera a ritenere, o se vi è stato un dolo. Un dolo che di per sé avrebbe un connotato comunque di eccezionale assurdità. Però detto questo, non ci si può non in qualche maniera ribellare al concetto che la vittima del fatto, cioè il bifulco, possa essere dai mass media o da una certa parte della politica essere letto, vissuto, interpretato come il classico bravo ragazzo. Io ho parlato di carabinieri come vera vittima di tutta questa storia, sì, perché se il carabiniere, se i giovani a bordo moto del ciclomotore non si fossero sottratti al controllo, si fossero assoggettati, non sarebbe successo questo. Certo. Il carabiniere, anche per il carabiniere sarebbe stata una normale notte di lavoro, il latitante se c'era sarebbe stato arrestato, chi lo favoriva sarebbe stato denunciato, le conseguenze sarebbero rientrate nella più assoluta normalità e oggi un giovane in divisa, peraltro da l'ottimo stato si apprende, non si troverebbe in una situazione che certamente ma su questo non c'è dubbio, cioè niente deve portare a quello che si è prodotto, però, e questo lo chiederemo tra poco all'avvocato, il fatto che non si siano fermati a un normale posto di blocco dei carabinieri, questo è un dato dal quale non si può prescindere, voglio dire, non è che si può far finta che non sia accaduto, però le chiedo questo, Bobbio, tra l'altro voglio ricordare agli ascoltatori, Bobbio è di Napoli, ha lavorato, è stato magistrato all'antimafia della Procura di Napoli, mi corregga se sbaglio, senatore, quindi magistrato, oggi giudice, è una persona di Napoli che conosce anche profondamente la realtà e una certa realtà di Napoli. Sì. Che effetto le fa aver letto, magari se li ha letti, anche qualche articolo che è andato molto pesante a incidere in un certo tessuto sociale di Napoli, a dire in quella situazione è chiaro che succedono queste cose? Ho pensato che c'è una buona parte di ragione, perché un contesto fortemente degradato in cui vivere violando le regole è vissuto in maniera normale, come la normalità, è certamente l'incubatrice, la matrice più favorevole a che poi le cose degenerino senza la volontà magari di nessuno e si determinino fatti come quelli che sono successi. Io per esempio non ho ancora ascoltato da chi oggi giustamente lamenta una terrificante perdita, non ho ancora ascoltato parole di pentimento per un deserto educativo di tipo familiare nel quale ad esempio è vissuta la vittima, il giovane bifulco, per essere arrivato al punto di minorenne essere autorizzato dalla famiglia a girare da solo di notte in città, senza casco, su un motorino, in compagnia di pregiudicati, sottraendosi al controllo delle forze dell'ordine. Chi doveva educare il giovane bifulco a comportamenti ben diversi da quelli che materialmente ha attuato? E rifugiarsi dietro le colpe della società, le colpe dello Stato, è sempre comodo, ma sta cominciando a diventare non solo stucchevole, ma anche pericoloso, perché ci si avvicina al punto di non ritorno. Ma chiaro, avvocato Anselmo, sono queste un po' le accuse che sono state fatte sui giornali, magari anche con titoli brutali, ma che Luigi Bobbio invece in maniera più pacata, però rilancia, ecco. Perché non si sono fermati all'ALT, per esempio? Sentami, scusami, sì. Perdoni, io sono un avvocato penalista, sì, e applico il codice. Se questo è il modo di ragionare il magistrato, io sto a casa e il processo non lo facciamo neanche, non facciamo neanche l'indagine. Allora, se qualcuno mi spiega che a Napoli ci sono delle regole di ingaggio, siamo in territorio di guerra e che le forze dell'ordine sono un esercito che occupa, diciamo, il territorio a fine di pace, e noi sappiamo che abbiamo delle norme di comportamento in tema di sicurezza che sono diverse da quelle del nostro codice penale, diciamolo. Se altrimenti applichiamo il nostro codice, la questione è un pochettino diversa. Chiedere poi alla famiglia che si penta del fatto di non aver educato il figlio incensurato, e sto dicendo incensurato, che a bordo di un motorino perde la vita non per aver forzato un posto di blocco, ma per essersi trovato un motorino guidato da altri che, diciamo, non si è fermato ad un sfalanamento da parte della Gazzetta dei Carabinieri che aveva cominciato ad inseguirlo per il fatto che erano in tre. Ecco, sostenere questo io credo che sia un po' problematico. Cioè, o ci troviamo in Afghanistan, in Libano, in territorio di guerra, la premessa che ho fatto è che nessuno mai giustifica lo sparo. Mi lasci finire. Io non voglio criminalizzare nessuno, io dico che c'è un'indagine in corso, io dico che se è un fatto colposo ogni considerazione è legittima, eccetera. Se si trattasse di un fatto doloso, e non lo sto affermando in questa sede, e lo si vuole giustificare in questo modo, credo che sia inaccettabile. Ripeto, avvocato, nessuno sicuramente non Bobbio, no, sicuramente assolutamente non io, no, nessuno poi, ha mai giudicato. No, aspetta, mi lasci dire però, avvocato. Ha educato il figlio, che il figlio mi era scusi, morto. Avvocato, mi lasci dire, nessuno ha mai giustificato per mezzo secondo, neanche un centesimo di secondo, lo sparo. Però voglio dire. Ho capito, ma stiamo parlando di quello. Quindi, no, ma nessuno sta dicendo che siccome tutte le volte che c'è uno che forza un posto di blocco bisogna sparare, nessuno ha mai detto questo. Non è stato forzato nessun posto, intanto nessun posto di blocco è stato forzato, primo, era un inseguimento, non c'era un posto di blocco. La gazzella ha notato questo motorino e ha iniziato a inseguire, il motorino anziché, diciamo così, fermarsi, ha proseguito la marcia, ma il concetto di posto di blocco, il senatore Bobbio lo sa benissimo, è diverso. Ma a prescindere da questo, io voglio dire questo, se le affermazioni del carabiniere sono assolutamente apprezzabili e meritano rispetto, non va criminalizzato, non va certamente giustiziato fra virgolette, diciamo così, dal punto di vista mediatico, però se parliamo di ipotesi, se parliamo di fatto colposo, possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo. Ma se fosse doloso, se parliamo doloso, di un fatto doloso, dovessero essere confermate le ricostruzioni, allora, che io ho ascoltato, Luigi Bobbio, se fosse un fatto doloso, poi dopo ci sarà tutto, cioè se fosse un fatto doloso sarebbe una cosa ovviamente, come l'hai detto, molto molto più grave, cioè... Certo, se si trattasse di un episodio doloso sarebbe di eccezionale gravità e questo chiaramente avrebbe delle conseguenze ben diverse, ma in questo momento nell'avvocato che giustamente svolge il suo mandato e la sua funzione, né tantomeno io che non sono assolutamente parte in causa, ma mi sono espresso, ripeto, prima privatamente e oggi magari pubblicamente, ma da cittadino anche tecnico su una determinata questione di carattere più generale, oggi può dire se sia stato doloso o colposo. E la mia valutazione prescinde dalla natura dell'episodio, se sia stato doloso o colposo, e assolutamente la valutazione che esprimevo prima non è giustificativa di nulla, né dell'episodio colposo, se tale, né dell'episodio doloso. Però la natura di questa vicenda, sia essa dolosa o colposa, faremmo tutti quanti noi a vario titolo un cattivo servizio alla società, in particolare a Napoli e ai napoletani, alla situazione napoletana, se non ci si interrogasse anche sul contorno, sul corollario che ha generato queste conseguenze e soprattutto se ci si limitasse a buttare la croce addosso a un giovane in divisa, il quale avrebbe voluto lui per primo essere lontano mille miglia dalla situazione, che la condotta di altri, che certamente non possono essere definiti dei bravi ragazzi, perché il concetto, ripeto, una volta era ben diverso da quello che oggi chi si vuole appiccicare addosso, ha in maniera determinante contribuito a causare. Se non sarà stato un posto di controllo, sarà stato un posto di controllo, un posto di blocco, sarà stato un alt intimato da una macchina di carabinieri con i colori d'istituto, ci si ferma, chi non ha niente da temere, una cultura della legalità ed è stato educato al rispetto delle regole, si ferma. E così io come oggi non capisco, lo dico con grande chiarezza, che mi dà veramente fastidio da cittadino e da uomo delle istituzioni, di uno Stato che sta manifestando quasi un complesso di colpa nei confronti di della famiglia e della vittima per quello che è successo. C'è uno Stato che accetta la verità, fa giustizia attraverso la magistratura, c'è uno Stato che però vive, non può consentire che, specialmente per il contesto in cui è maturato l'episodio, dal quale è nato l'episodio, oggi qualche centinaio di persone ancora una volta con metodi inaccettabili non manifestino, tengono in ostaggio una porzione di una città, in una funzione di supplenza o di pressione, funzione dell'autorità giudiziaria, che è inaccettabile. Che senso ha oggi? Ci si affida alla giustizia e allora sgombrare le strade. Avvocato, per concludere, poi devo dare un attimo in pubblicità, ricordo che alle 8:45 avremo anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. È vero quello che leggo per esempio oggi su Libero, che Tommaso Bifolco, cioè uno dei fratelli, è ai domiciliari, uno di quelli che abbiamo visto inveire, giustamente inveire? A chi rivolge la domanda? A lei, avvocato. Sì, guardi, sì, cioè, però io ripeto, cioè, mi focalizzo sempre sul merito della questione. Cioè, è vero che nessuno può fermare se doloso o colposo, ma tutte queste considerazioni credo che siano assolutamente ultrone. Quindi da questo punto di vista, cioè, beh, ho capito, problema, però sa, cioè, sentire dichiarazioni, non si ferma un posto di blocco, però ad esempio sentire dichiarazioni contro lo Stato che ci sono state da parte di familiari, uno dei quali è agli arresti domiciliari, io qualcosa, come dire, un cortocircuito me lo pone nella testa di dire. Bene, ma anche l'applauso fatto in sede di sindacato di polizia, diciamo così, a coloro che sono stati condannati, è vero, infatti il capo del sindacato lo chiamai e lo considero molto più grave, perché è chiaro che il fratello di un ragazzo di 16 anni appena morto, diciamo così, può anche lasciarsi andare determinate considerazioni. Sì, poi sì. Dopo, se lo vogliamo mettere, diciamo così, sotto processo, mettiamolo ma non lo mettiamo sotto processo. Vogliamo, però lei sa, avvocato, che insomma c'è stata anche un'analisi del contesto in cui è maturato questo episodio. Di blocco, diciamo, chi forza un posto di blocco è soggetto ad una sanzione di carattere penale, chi non invece non si ferma all'alto senza forzare il posto di blocco è una sanzione amministrativa al codice della strada. Qui abbiamo una persona alla quale è stato sparato e che è morta, punto. Un ragazzo di 16 anni, questo è il fatto. Poi dopodiché chiarirà la magistratura. Scusatemi, ma io purtroppo devo... Guardi, intanto io qua mi devo fermare, vi ringrazio, devo andare in pubblicità. Ringrazio lei, avvocato Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Bifolco, così come Luigi Bobbio, che voglio ricordare oggi è giudice al Tribunale di Nocera Inferiore, è stato senatore, è stato sindaco di Castellammare di Stabia, è stato anche magistrato della direzione antimafia a Napoli. Dopo la pubblicità, se volete chiamarci, 800 24 00 24, ricordate sempre, dite quello che pensate, ma con massimo rispetto. C'è una persona, un ragazzo che è morto, questo non dobbiamo dimenticarlo. Poi avremo il sindaco di Napoli e tra qualche minuto Luigi De Magistris ai nostri microfoni. 24 mattino. Siamo qui alle 8.42 minuti, parliamo allora della tragedia di Napoli. Ci sono gli ascoltatori 800 24 00 24 che ci chiamano non da Napoli, anche se molti ci ascoltano da lì, in questo caso Sergio da Torino. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Che dice, ovviamente in base a quello che ha letto sui giornali o ha visto in TV, immagino. Sì, e la cosa mi lascia sconvolto, perché io capisco... Ma è impossibile non capire il dolore della famiglia, delle persone che hanno un morto. Però capisco anche in parte le manifestazioni, perché comunque ci sono gli amici, ci sono i familiari, c'è gente che prende parte. Però non vedo la stessa carica di empatia da parte della gente di Napoli, che io stimo e ammiro, con la quale ho dei rapporti. Non la vedo nel caso di morti da camorra, perché... In quel caso lì, secondo me, la manifestazione fa paura, e quindi a questo punto ci vedo una complicità o perlomeno un tirarsi indietro e rimanere nascosti. Allora lo Stato è colpevole e invece gli altri, la camorra, la delinquenza, fanno paura e sono veramente padroni della città. E quindi allora a questo punto lo Stato dov'è? Lei vede questa differenza, la ringrazio Sergio, notevole. Grazie. Antonio dalla provincia di Roma, buongiorno Antonio. Da Roma. Sì, da Roma. Buongiorno, saluto tutti. È napoletano, però, ho capito bene? Sono napoletano, ho vissuto fino a 10 anni fa a Roma, per 40 anni a Napoli, quindi ho vissuto 40 anni a Napoli in una periferia, quindi in un quartiere piuttosto degradato. Voglio dire una cosa, a me è quello che ha lasciato sconvolto dall'avvocato, notizie dell'avvocato, per carità, tutte parole giustissime, la maggior parte parole giustissime. Diceva che ci basiamo su quelle che sono le testimonianze. Purtroppo dico io, le testimonianze che oggi sono sui giornali sono di gente che sta per strada alle 3 di notte in un quartiere che è quello di... Le testimonianze sono ovviamente quelle che erano lì. Sono comunque, esatto, quindi basiamoci un attimo su quelli che sono i fatti oggettivi di quelli che sarà un'autopsia, perché quello che diceva anche l'avvocato, il magistrato, sono tutte cose giuste. Però ripeto, sono molto d'accordo col magistrato Bobbio sul fatto che i buoni ragazzi son cambiati e sono diversi, e quindi facciamo un'analisi di questo. Io sono dispiaciuto, perché Napoli è una grande città. È chiaro. La mia osservazione è questa, è la testimonianza. Purtroppo abbiamo dei problemi proprio di gente che testimonierà. Perché faccio un esempio, quando il fatto solo che quei testimoni fossero lì alle 3 di notte li rende testimoni. Sì, sono persone che sono fuori una sala giochi, è stato collocato fuori una sala giochi. Cioè, mettiamoci un attimo, chi è che può stare fuori una sala giochi? Ho capito Antonio, però che si può fare? Allora bisogna fare l'autopsia e sentire la versione del carabiniere. Non le sto dicendo questo. È che praticamente è la stampa che non deve dare troppo peso a queste, perché i magistrati sanno è chiaro, è chiaro, i magistrati valuteranno se sono testimonianze di persone attendibili o no, su questo non c'è dubbio. Antonio, la ringrazio per la sua chiamata. Vorrei sentire anche Alberto da Milano. Alberto, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Milano e sono milanesissimo, quindi teoricamente lontanissimo culturalmente, però quando si dice che Napoli è colpevole, si ridice che lo Stato è colpevole. Perché se a Napoli si afferma una certa cultura piuttosto che una certa questa impunità, la carenza dello Stato, di nuovo se la gente non va in piazza contro la camorra, chi è che deve tutelare la gente dalla camorra? È lo Stato, quindi è sempre una sconfitta dello Stato. Se la famiglia manca, nella famiglia manca la funzione educativa, c'è il deserto culturale che il magistrato diceva, chi è che dovrebbe supplire le carenze della famiglia? Lo Stato, la scuola, l'educazione. Quindi è di nuovo lo Stato colpevole, non il carabiniere in sé ovviamente, ma culturalmente l'impunità e il messaggio che la classe politica da 50 anni passa è che la si fa franca andando in giro senza casco, non fermandosi a un posto di blocco, a un fermo, a quello che è, perché il messaggio passato è che qui la si fa franca davanti a me mentre parlavo, fermo, ha girato a destra contro mano una macchina a Milano. Però il messaggio qual è? Che la si fa sempre franca. Lo Stato che come prima vittima di tutto. Lei dice uno Stato che è primo colpevole, anzi, prima di tutto. La ringrazio, Alberto da Milano. Dopo il traffico, ma saluto già il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi. 30 secondi di pausa, c'è il traffico e poi sono da lei. Eccoci qui, fino alle 8.55 siamo col sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Allora, sindaco, si è scritto e letto di tutto e anche lei avrà sentito, letto e visto di tutto, di questa che rimane di base, di fondo, una tragedia. Un ragazzo di 16 anni che viene ucciso per un colpo di pistola sparato da un carabiniere. Non so se ha già letto oggi su Repubblica le prime parole di questo carabiniere che dice: chiedo perdono, è stato un incidente. Lei che idea si è fatto di tutta questa tragedia, sindaco? Io innanzitutto la sto vivendo come napoletano e come sindaco questa situazione e non mi sta per nulla, pur comprendendola, appassionando ovviamente la polemica. L'idea che mi sono fatto io è che innanzitutto questa è una grandissima tragedia, quindi non è un fatto di ordinaria amministrazione, è un fatto con riferimento al quale c'è bisogno rapidamente, se possibile, di chiarezza e di giustizia, che è quello che poi chiedono giustamente i familiari e gli amici. È una vicenda ancora troppo oscura, con versioni molto differenti, e questo francamente ovviamente non aiuta ad abbassare la tensione e l'inquietudine. Oggi il nostro compito, il mio compito, è quello innanzitutto di stare vicino a chi ha subito la sofferenza più inaccettabile e più grande, che i ragazzi, i suoi familiari, i suoi amici, e quindi senza stare a dire ti schieri da una parte o dall'altra, e soprattutto anche ridurre, perché ascoltavo la parte finale dell'intervento dell'ascoltatore, ridurre le distanze tra il cittadino che si sente abbandonato e le istituzioni, per evitare una frattura che poi quella sì può essere pericolosa tra popolo e istituzioni. Però sindaco, cosa risponde lei quando qualcuno fa notare che c'è un certo diffuso grado di illegalità in alcune situazioni, che non potrà mai giustificare quello che è successo ovviamente, però può portare a tragedie, se fosse ovviamente un incidente, se fosse non un atto doloso? Fare una breve riflessione. Mi sono un po', lo dico con orgoglio e con fierezza di essere napoletano, prima ancora del sindaco, anche un po' stancato di questo fatto, e quando una vicenda grave come questa accade in un'altra parte del nostro paese viene inquadrata come la vicenda storica da analizzare. Accade questa vicenda a Napoli e ci dobbiamo sorbire ancora, diciamo, per tanto tempo il fatto: sì, però a Napoli tutto è consentito, a Napoli l'illegalità è sovrana, l'illegalità regna. Non è così, cioè Napoli è una delle più difficili città del mondo, ecco, New York, non so, Buenos Aires, ecco, tra le grandi e più belle e difficili città del mondo. Quindi a Napoli esiste che ci stanno 5 ragazzi che vanno sul motorino, non è che lo Stato non li ferma o li tollera. È una città dove c'è il più alto numero di giovani d'Europa, una disoccupazione alta, molti scugnizzi, molto arrangiarsi. È una città difficile che non può governarsi solo con la dura repressione, questo lo sanno le forze dell'ordine, le istituzioni. Quindi è difficilissimo fare il carabiniere, il magistrato, sì, il sindaco, il parroco nella nostra città. Però non ci sto a questa cosa, eppure legittimamente, per carità, per chi sta fuori dalla nostra città, e vabbè, è accaduto a Napoli, quello non si è fermato là, tutto quello che si vuole. Oggi io non voglio analizzare la vicenda che spetta alla magistratura. Per come è accaduta, Oggi noi dobbiamo alleviare le sofferenze di una famiglia, perché morire a 17 anni così, qualunque cosa possa essere accaduto, quella notte, questo, è inaccettabile. Questo non c'è dubbio. Però lei, dicendo a Napoli, che è una città molto difficile, succedono queste cose, per dire, si può andare in 3 o in 4 in motorino e niente deve giustificare quello che è successo. Però non crede che è anche giusto, da una persona che ha fatto il magistrato, una persona, cioè, rivendicare invece un diritto supremo alla legalità soprattutto? Assolutamente sì, e non è casuale che oggi il sindaco di Napoli è un magistrato. Evidentemente nella maggioranza, nella stragrande maggioranza dei napoletani, la legalità è ben vissuta, è ben viva. Oggi la maggioranza dei napoletani vanno con il casco, non violano le norme del codice della strada, però ripeto, è ancora, come le grandi e difficili città del mondo, una città dove c'è comunque una concezione, la voglio far capire così, relativa della legalità. Un esempio che a me ha colpito moltissimo: quando incontrai 5 ragazzi su un motorino, non ero sindaco di Napoli, stavo in campagna elettorale in un quartiere di Napoli, questi guardando, disse: sindaco, ma raccomanda legalità. E non era uno sfottò, mi chiamavano già sindaco, ma loro, perché per loro la legalità in quel contesto difficile, per esempio la liberazione della camorra e andare in 5 sul motorino, è un atto di ribellione e di essere scugnizio, il che non significa tollerarlo, come giustamente dice lei, però bisogna saper comprendere che in una città così difficile ci vuole comunque del tempo, del tempo che non può essere assegnato solo alle istituzioni, ma c'è un grande lavoro che fanno le scuole, che fanno le famiglie, che fanno le parrocchie, insomma la strada è stata fatta, tanta strada, attenzione. Senta, lei che cosa sentirebbe di dire invece nei confronti del carabiniere che oggi scrive Repubblica, chiede perdono, parla di incidente, e prima noi avevamo Luigi Bobbio a dire la vera vittima è lui di questa situazione. Beh, insomma, se ho letto le dichiarazioni di Bobbio, ripeto, io non mi inserisco. Per me oggi chi ha subito la vera tragedia è Davide e i suoi familiari. Poi io ho vissuto nella mia vita più con i carabinieri, poliziotti e finanzieri che con i miei familiari, perché ho fatto il magistrato a tempo pieno, quindi so che significa fare il carabiniere e il poliziotto a Napoli, in Italia, pagati poco, in condizioni difficilissime, quindi non mi sfugge questo tema, però lasciamo alla magistratura l'accertamento della verità, accertiamo, cioè stiamo vicino, come dire, a chi sta soffrendo e cerchiamo di far comprendere che non deve assolutamente essere un conflitto tra i familiari e l'arma dei carabinieri. Ecco, questo è un tema importante, non ci deve stare un senso di repulsione nei confronti di chi con grande dedizione e abnegazione ogni giorno rappresenta le istituzioni. Però nella nostra città le manifestazioni dei familiari non sono, secondo lei, esagerate? Cioè, va bene, la rabbia è giusto, ma perché scendere in piazza? Scendere in piazza contro chi? Contro cosa? Perché? Io sto in contatto con la famiglia perché sto cercando loro di far comprendere che oggi l'obiettivo è verità e giustizia e non assumere da parte di nessuno scorciatoie pericolose, perché in questi momenti c'è chi può approfittare, c'è chi si può infiltrare, c'è chi può avere interessi altri rispetto all'esigenza di verità e giustizia della famiglia, della città, del sindaco e della stessa, immagino, arma dei carabinieri. Quindi non c'è lo Stato da una parte, i familiari dall'altra. Dobbiamo evitare che altri, che anche ci sono nella nostra città, come nel nostro paese, quindi delinquenti organizzati, si possano inserire in una vicenda così dolorosa. Lei andrà ai funerali, sindaco? Che non so neanche quando saranno, perché l'autopsia credo sarà domani. Ma adesso, sì, noi ovviamente stiamo seguendo, parteciperemo e stiamo partecipando a questo dramma, soprattutto io adesso in modo discreto e non appariscente, cercando di raggiungere l'obiettivo di calmare soprattutto la situazione, abbassare la tensione, sto in contatto con la famiglia e devo dire, nei colloqui che ho avuto, ho visto molta compostezza anche nella madre, stiamo cercando, insomma, il contesto, guardi, è complicato, è difficile, ci sono stati anche momenti di tensione, quindi sicuramente sto lavorando e stiamo lavorando per cercare di tenere la situazione quanto più calma è possibile nel contesto dato e nella tragedia a cui abbiamo assistito. L'ultima domanda che le faccio è questa, da ex magistrato, lei dove bisognerebbe partire per sapere, per accertare i fatti, insomma, per capire se da una parte la versione del carabiniere, quella di testimoni di cui ci ha parlato l'avvocato, che pare confliggano, quale delle due sia la versione giusta? Beh, l'autopsia sia gli accertamenti balistici di queste ore sono fondamentali, poi ovviamente le testimonianze, ma credo che quello che accadrà nelle prossime ore, tac, accertamenti balistici sono fondamentali. L'esperienza, io pure mi sono trovato di fronte a casi più o meno di questo tipo, è fondamentale la traiettoria del colpo, le distanze, insomma, questo lavoro sarà fondamentale per il processo. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ci fermiamo per il momento, continuiamo fino alle 9.30 come sapete, e dopo il giornale radio parleremo di che cosa? Beh, questa guerra di religione di cui si è parlato molto, sempre la minaccia del terrorismo islamico, tra l'altro si avvicina l'11 settembre, avremo vari ospiti, Lorenzo Cremonese inviato in Iraq, Giuliano Ferrara direttore del Foglio e padre Giulio Albanese direttore di Popoli e Missione. Tra poco, dopo il giornale radio. 24 mattino. Sono le 9:08, ben ritrovati ancora da Alessandro Milan, saremo insieme come sapete fino alle 9:30. Di cosa vogliamo parlare? Scriveva qualche giorno fa Giuliano Ferrara sul Foglio: è in corso una guerra di religione, della cui ferocia ultimativa e coesiva, appunto religiosa, solo un fronte è consapevole, il loro. Il loro è quello degli estremisti islamici, coloro che, scriveva sempre Ferrara, impugnano la lama togliendo dal busto il collo di un figliolo di Occidente in nome del misericordioso. È una ricorrenza storica l'11 settembre che si avvicina, e fatti accertati, fatti terribili tra l'Iraq e la Siria. Sapete che l'esercito islamico in azione ha propagato le immagini delle decapitazioni dei giornalisti americani, ma non solo, immagini molto crude. Insomma, tutto questo rilancia le teorie propagate in tempi lontani da Oriana Fallaci sulla guerra di religione. Noi e l'Islam. C'è per esempio chi da giorni racconta come essere cristiani in alcuni luoghi è molto complicato, diciamo così, soprattutto in questo momento. È Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, inviato, si trova in Iraq. Buongiorno Lorenzo e ben ritrovato. Sì, buongiorno. Tu hai raccontato e racconti come essere cristiani, soprattutto nell'Iraq settentrionale, laddove c'è quindi l'avanzata dell'esercito islamico, comporti che cosa? Comporta addirittura il rischio della vita, comunque della casa, delle abitazioni, dei propri cari, della propria esistenza. Noi parliamo dell'Iraq del nord perché negli ultimi tempi qui è avvenuto il peggio, ma non dimentichiamo che la larga maggioranza dei cristiani sono già profughi, erano scappati da Baghdad dopo i gravissimi attentati del 2004-2006, quindi è una storia ormai lunga. È una storia lunga. Vengono colpiti in quanto cristiani, o c'è anche qualche altra motivazione geopolitica diversa da quella religiosa? Diciamo che non vengono colpiti solo loro, quelli che sono stati colpiti di più sono gli yazidi, che sono accusati di essere atei, addirittura adoratori del diavolo non musulmani. Direi che in questo momento vengono colpiti i diversi, tutti coloro i quali non sono sunniti, quindi anche gli sciiti, quindi questo si mette nel quadro del grosso scontro, della grande guerra di religione, di identità geopolitica tra Iran e Arabia Saudita che ormai brucia almeno dal 2003, ma in particolare io direi che i cristiani sono attaccati in quanto non sono musulmani sunniti, e per loro va ancora abbastanza bene perché gli si dice: se non vi convertite dovete andarvene oppure dovete pagare la tassa, la famosa tassa ancora del Medioevo, antica, che è una tassa tra l'altro molto alta, sembra addirittura che abbiano chiesto al mese per famiglia tra i 250 e i 300 dollari, in un luogo dove il reddito medio è sui 500-600 dollari, quindi davvero tantissimo. Però allora va ancora bene, io parlavo con dei cristiani proprio l'altro giorno che sono scappati 4 giorni fa e quindi hanno vissuto per quasi un mese sotto il controllo del cosiddetto califfato e quindi ne hanno avuto un'esperienza lunga, i quali dicono: no, non ci hanno mai voluto uccidere, ci hanno continuamente chiesto: convertitevi, convertitevi, se no vi porteremo via tutto. Non lo hanno fatto e quindi sono partiti. Ma per gli yazidi, per esempio, questa scelta non c'è. Gli uomini sono stati uccisi a centinaia e le donne sono state fatte schiave. Non abbiamo ancora notizia, per fortuna, fino ad ora, di donne cristiane vendute al mercato delle schiave di Mosul. Allora, chi mette subito in guardia, da sempre in guardia, contro il rischio di andare in questo crinale di guerra di religione è padre Giulio Albanese, che saluta il direttore di Popoli e Missione. Buongiorno padre Albanese, eccoci qua. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Allora, perché non è una guerra di religione? Senti, io credo che sia giusto dire la verità. Allora, noi ci troviamo di fronte ad un'organizzazione criminale che sta strumentalizzando la religione per fini eversivi. E nel momento in cui noi cominciamo a parlare di guerra di religione, noi facciamo il gioco di questi fanatici e inneschiamo quello scontro di civiltà che, credimi, in questo frangente della storia è davvero pericoloso. Noi stiamo giocando con il fuoco. Dico questo perché le responsabilità dell'Occidente rispetto a quello che è successo in Medio Oriente sono talmente eclatanti. Mi dispiace che Ferrara continui ad osannare la signora Fallaci. Giuliano Ferrara, davvero, che ricordiamo tra poco sarà ai nostri microfoni. Sì, ma mi dispiace molto, lo dico fondamentalmente per un motivo, perché non dimentichiamo che tutto questo disastro in Iraq è stato causato perché nel 2003 un certo signore di nome George W. Bush ha cominciato ad utilizzare le bombe intelligenti che hanno fatto disastri a dismisura. E la verità è che sono trascorsi oltre 10 anni e da quelle parti c'è una situazione di anarchia, di confusione, e credo che dovremmo davvero riflettere sul fatto che comunque non possiamo dividere lo scenario tra buoni e cattivi. Mm. È una questione di onestà intellettuale. E una cosa certamente la possiamo dire, padre Giulio, e cioè tu oggi ne scrivi anche in prima pagina di Avvenire, quello che invece è successo in Burundi, una terribile tragedia, come ha detto anche padre Mario Pulcini, che è il capo dei Saveriani, superiore dei Saveriani in Burundi, non c'entra affatto con la religione, mi pare di poter dire che è così. Non c'entra assolutamente niente. La cosa allucinante è che ieri c'è stata qualche testata che ha cominciato a parlare subito di guerra di religione. Ora, il fatto che i missionari siano delle sentinelle del mattino, segni di contraddizione, messaggeri, araldi del Vangelo, questo non significa necessariamente che siano perseguitati. Certamente vi possono essere casi particolari, molte volte sono, come dire, una pacifica forza di contrapposizione tra gli opposti schieramenti. Io li ho sempre definiti, soprattutto in queste periferie del mondo, caschi blu di Dio. Però il messaggio di cui sono chiamati ad essere testimoni è un messaggio non violento. E non dimentichiamo che il cristianesimo è incentrato innanzitutto e soprattutto sulla formazione di un principio sacrosanto che credo sia bene rammentare, vale a dire l'amore nei confronti del nemico. Il cristiano non è contro nessuno. Se noi svuotiamo il cristianesimo di questo messaggio profetico, riduciamo il cristianesimo ad un algido compendio di leggi, leggine, dottrine, un qualche cosa che afferma la dimensione identitaria, dimenticando che essere cattolici significa davvero affermare l'universalità. L'universalità significa questo, che io devo piangere quando viene ucciso un cristiano, ci mancherebbe, ma devo piangere anche quando viene ucciso un musulmano, perché ogni persona, e questo lo dice la dottrina della Chiesa, lo dice il Magistero della Chiesa, ogni persona, indipendentemente dal fatto che sia credente o non credente, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Giuliano Ferrara, che saluto, direttore del Foglio, buongiorno direttore. Buongiorno. Giuliano Ferrara, abbiamo ai microfoni anche padre Giulio Albanese, che ci raccontava come parlare di guerra di religione, a suo modo di vedere, è pericoloso, oltre che sbagliato, pericoloso per le responsabilità del 2003, George Bush, insomma, cose che lei nell'articolo di qualche giorno fa sul Foglio, che ha fatto molto discutere, ha ben espresso, dicendo e concludendo invece che secondo lei la ricetta è quella di una violenza estremamente superiore di fronte a questa violenza che ci invade. Perché è arrivato, insomma, a spingersi a dire una realtà che lei stesso definisce sconcertante? Guarda, io naturalmente non sono un uomo di chiesa, quindi mentre capisco molto bene che Don Giulio Albanese dica noi dobbiamo amare i nostri nemici, piangiamo gli uomini universalmente intesi, non abbiamo alcun senso identitario se non il coltivare la nostra verità, ma in dialogo con tutti gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Lo capisco perfettamente. Però Giulio Albanese deve riconoscere che questo è un cristianesimo. Io sono laico, vedo la cosa storicamente, anche se apprezzando molto il significato della fede e la buona fede nell'affermare la fede che si sente in persone come Albanese, come padre, come il Papa Francesco, eccetera. È un cristianesimo, perché il cristianesimo è stato anche quello di San Bernardo di Chiaravalle, è stato anche quello delle crociate, è stato quello in cui l'universalità era l'universalità nella verità. Quindi insomma la verità non è che ce ne sono due di verità, perché se no non ce n'è nessuna, diventiamo nicciani, diventiamo irrazionalisti. La verità è una verità di alleanza tra fede e ragione che si afferma attraverso la storia, la cultura e la civilizzazione. Allora, dire che io capisco, non vogliamo combattere una guerra di religione è una frase per la quale io provo il massimo rispetto, non sono d'accordo ma provo il massimo rispetto, ma dire non esiste alcuna guerra di religione è un modo di diciamo, come dire, truffare spiritualmente oggi l'umanità, perché la guerra di religione c'è, è la cosa più evidente della nostra epoca. Il credo musulmano è un credo, e Don Giulio Albanese lo sa benissimo perché i preti sono persone colte, è un credo che si costruisce profeticamente come scisma o comunque come altro monoteismo dopo quello ebraico e dopo quello cristiano in termini politici. Maometto è un capo politico, il profeta è un capo spirituale e un capo politico, e la dottrina loro se la sono ben conservata e non si cambia, non c'è niente da fare, c'è la sharia, sì, c'è il, come si dice, l'apostasia, c'è l'infedele. Quindi con questa cosa, Don Giulio Albanese, bisogna fare i conti. Ma Ferrara, non si può pretendere sì, che il mondo occidentale faccia i conti riferendosi ai versetti evangelici che parlano dell'amore per il nemico. L'amore per il nemico è una cosa complessa, non significa sottomettersi alla spada dell'Islam. Però Ferrara, c'è una guerra di religione o ci sono pochi, tanti, uno sparuto drappello di fanatici che in nome della religione, distorcendo quella religione, colpiscono l'Occidente? No, c'è proprio una guerra di religione compatta, vasta, cioè la umma islamica, l'insieme dei fedeli islamici nel mondo, naturalmente è variegata, ci sono diverse tendenze, modi di convivere diversi con i tempi moderni, ma in tutti c'è salda, al di là del fatto che si ammazzano per decidere chi di loro deve ammazzarci e per quali ragioni, ma c'è saldo il fatto polarizzante che loro sono i nostri nemici, che noi siamo alle origini delle loro disgrazie. Non c'è la volontà di incontro, altrimenti i decapitatori sarebbero stati oggetto di ira da parte dell'Islam cosiddetto moderato, il quale non esiste. Padre Giulio Albanese, le posizioni di Giuliano Ferrara sono molto, allora, molto io vorrei nette. Vorrei ricordare a Ferrara, di cui ripeto ho una grandissima stima, in più circostanze ci siamo incontrate e a volte abbiamo anche duellato verbalmente, ma comunque lo stimo moltissimo come intellettuale e come collega giornalista. Detto questo, vorrei ricordare una cosa: ci sono dei problemi che riguardano il mondo islamico, nessuno questo lo nega, però attenzione a fare di tutte le erbe un fascio. Cioè, porsi in un atteggiamento tout court di disprezzo nei confronti dell'Islam è estremamente pericoloso. Non è assolutamente vero che in questi anni non c'è stata una riflessione da parte della società civile nel mondo islamico, e anche i recenti fatti dell'Egitto da questo punto di vista la dicono lunga. Mi viene in mente un intellettuale iraniano come Ali Shariati, il quale nel 1975 scriveva che la sfida tra Oriente e Occidente, tra mondo islamico e mondo occidentale, era quella di permettere al mondo islamico di riuscire a recuperare il tempo, nel senso che la cultura islamica, inutile nasconderselo, è tra il XIII e il XIV secolo. E dov'era l'Europa tra il XIII e il XIV secolo? Ancora non c'era stata la riforma in Europa. Questo che cosa significa? Che se vogliamo aiutare il mondo islamico ad accettare la sfida della modernità, l'Occidente dovrebbe porsi in maniera perspicace nei confronti del mondo arabo. Questo che cosa significa? Sì, ma, avremmo dovuto investire nelle università, sì, avremmo dovuto aiutare quegli intellettuali che in questi anni nel mondo arabo sono stati abbandonati. Sì, ma padre Albanese, Giuliano Ferrara ci dice che c'è una umma islamica, vale a dire un'intera comunità che ci percepisce come il nemico. Se premessa è vera, come fai a discutere con... Ma scusami, proviamo a riflettere come è venuta fuori Al-Qaeda. Ma scusami, il mondo islamico negli anni 70 che cosa faceva? Metteva le bombe, c'erano i kamikaze. C'è stata un'escalation di violenza studiata a tavolino da menti perverse dopo l'intervento occidentale. Ma soprattutto pensiamo al salafismo, pensiamo ai disastri che ha fatto il salafismo. Ma pensare che il mondo islamico coincida oggi col pensiero unico dei salafiti è davvero peccaminoso. E vorrei ricordare un'altra cosa che tante volte noi ci dimentichiamo, che l'Occidente, gli Stati Uniti in primis, hanno sempre considerato come al loro alleato strategico la casa regnante dell'Arabia Saudita. Sì. Ora, fino a prova contraria, in Arabia Saudita... Regno del wahabismo. Esatto, dei wahabiti. Lì è nato il salafismo, lì è nata Al-Qaeda. Insomma, le responsabilità occidentali, tra un attimo torno anche da Lorenzo Cremonesi che è collegato dall'Iraq. Giuliano Ferrara, lei nell'articolo se la prende soprattutto con Bernardo Valli, grande inviato di guerra, che da tempo scrive appunto che le responsabilità, come ci ha detto padre Giulio Albanese, dell'amministrazione Bush, ma ancora prima se vuole anche delle amministrazioni americane e dell'Occidente in generale, non possono non essere tenute in considerazione per analizzare la situazione in cui siamo. Sì, guardi, prima di tutto io voglio specificare, io non disprezzo affatto l'Islam, sia chiaro, cioè nell'amare il proprio nemico c'è anche il fatto di considerarlo nemico e amarlo in quanto tale, cioè la religione islamica è un grande fatto della storia universale. Ovviamente sono di cultura cristiana, sebbene non possegga il dono della fede, mi considero parte di questa civilizzazione e quindi sto dall'altra parte, ma amo l'Islam, non è che lo disprezzo, non esiste la prospettiva del disprezzo per una persona assennata e con la testa sulle spalle. Quanto a quello che lei diceva adesso, le responsabilità dell'Occidente, io anche su questo vorrei essere, diciamo, chiaro. Ce ne sono due di responsabilità possibili, o di aver fatto troppo o di aver fatto troppo poco. Io sono di questa seconda scuola, l'Occidente si è ritirato quando gli hanno ammazzato nelle caserme e fu Reagan addirittura a ordinare il ritiro a Beirut 400 soldati, l'Occidente si è ritirato a dei missili a caso quando sono state distrutte le ambasciate, l'Occidente non ha saputo distinguere la sacrosanta lotta contro l'Unione Sovietica che aveva invaso l'Afghanistan tra un Islam che si poteva strumentalmente e tatticamente aiutare contro il nemico principale che allora era l'Unione Sovietica e Bin Laden, e ha finanziato e armato Bin Laden. Però l'Occidente è dall'altra parte, non so come spiegare, l'11 sì. settembre non è un incubo, è una realtà, cioè molti terroristi sauditi dopo aver fatto le abluzioni rituali, certamente non per uno spirito, è lo spirito dei kamikaze, è uno spirito degli shahid, è uno spirito religiosamente infuocato, hanno deciso di distruggere il più grande simbolo della civilizzazione occidentale, le due torri che stavano lì a presidiare il commercio mondiale. E il commercio mondiale non è una cattiveria di profitto, è il nostro modo di vivere, è la cosa di cui vivono anche i contadini indiani, è la cosa di cui vivono i poveri in tutto il mondo, che infatti in questi anni si sono ridotti di circa 1 miliardo, insomma è il nostro modello, loro lo odiano, non c'è niente da fare, don Giulio, non c'è niente da fare, lo odiano, se... e odiandolo cercano di distruggerlo, sì, e noi dobbiamo difenderlo. Se io sintetizzo il suo pensiero così, Ferrara, possiamo aver fatto degli errori come occidentali, ma noi ricordiamoci che siamo nel bene e loro nel torto. Nel bene adesso è moralistico, no, nel bene no, siamo noi, e esiste anche un campo, come diceva il teologo laico Carl Schmitt, in cui esiste l'amico e il nemico e c'è una frontiera. Noi vogliamo abbattere tutti i muri, abbattere tutti, costruire ponti, è un grande ideale umanitario, tant'è vero che Don Giulio Albanese ha detto che considera gli insediamenti missionari come i caschi blu di Dio. Cioè, noi abbiamo un'ideologia dell'ONU, ma il cristianesimo e la civiltà cristiana è una cosa diversa dall'approdo provvisorio e difettoso dell'umanitarismo universalistico dell'ONU. Quella è una roba che non funziona. Io vorrei che Lorenzo Cremonesi, che ha assistito pazientemente, lo ringrazio, di tutta questa discussione dall'Iraq, dal punto di vista del cronista, che sul campo poi misura quelle che sono anche le teorie e le ideologie e le mette in pratica, le osserva su come possono concretizzarsi sul campo, capire tutto questo discorso di guerra di religione, vero o presunta, come si concretizza lì in Iraq, Lorenzo. Sì, dunque io posso dirvi che qui dal campo, visto che sono oltre 30 anni che bazzico in queste zone, c'è stata davvero una crescita esponenziale dell'elemento religioso, religione come identità, religione come scontro, religione come appartenenza. Io mi ricordo quando andavo a Gaza negli anni 70, non c'era nessuna donna con il velo e oggi Gaza sono tutte col velo. Nessuno mi chiedeva se ero cristiano, forse ebreo per un discorso di rapporto con Israele, ma proprio per un discorso, come dire, nazionalista. Non si identificava nel Medio Oriente l'occidentale che arrivava dall'estero per la sua fede. Oggi è fondamentale, quindi io direi che è stata la fine della laicità, la fine dei movimenti laici ormai da lungo lungo tempo, e oggi noi veniamo ormai è una cosa vecchia, sono già almeno 10 anni, ma noi veniamo catalogati, attaccati, perseguitati in quanto non musulmani. Quindi direi che non è vero che non c'è una guerra di religione, c'è fortissima, cresce, poi naturalmente viene usata, ci sono dei movimenti più duri, altri meno duri, ma è un elemento innegabile di quello che è avvenuto. Di quello possiamo che sta succedendo. Possiamo dargli delle giustificazioni, la crisi economica, la povertà, quello che è accaduto con i nuovi media, con internet, cui questi vedono dalle loro case come si può vivere bene, eppure loro vivono male, e quindi questa frustrazione profonda nei confronti nostri del mondo occidentale. Ma tutto questo si è paludato, si è visto soprattutto negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni. Ma tra l'altro io vorrei dire, andiamo al 2001, andiamo alle Torri Gemelle, nel momento in cui Clinton apriva al mondo arabo, faceva la mediazione tra Arafat e Rabin e poi con chi ne segue, e qualcuno in Afghanistan, che era stato totalmente abbandonato dal mondo occidentale, anzi, se una cosa può essere fatta agli Stati Uniti, al mondo occidentale, è quello di aver abbandonato l'Afghanistan dopo la fine della presenza russa. Qualcuno pensava di attaccarci. Proprio in quel momento in cui c'è stata l'apertura clintoniana. Io però, siccome sono in conclusione, vorrei capire da Giuliano Ferrara in concreto cosa significa, in quella sua conclusione di articolare di editoriale molto molto veemente, anche lei dice sconcertante, quando dice l'Occidente dovrebbe rispondere con una violenza incomparabilmente superiore, cioè in concreto che fare? Lo so, sembra che qui caschi l'asino, cioè come dire, tu parli, ma poi che vogliamo fare? Vogliamo fare guerra a 1,5 miliardi di musulmani? Non è questo quello che dico. Dico che in tutte le applicazioni, diciamo, della nostra mentalità e della nostra civiltà, noi dobbiamo usare una violenza incomparabilmente superiore. Vuol dire via la Sharia dal territorio inglese, rimpatrio di chiunque non accetti le nostre regole e blocco dell'invasione ideologica musulmana dentro il multiculturalismo, vuol dire difendere il territorio e vuol dire naturalmente quello che ha detto poi Kissinger, mica sono un pazzo che va proclamando queste cose, non esistono questi profetismi a Lauriana Fallaci eccetera. Kissinger, che è un uomo che la politica, la geopolitica la conosce, in un'intervista di ieri, non mi ricordo a quale giornale, ha detto: beh, la prima cosa da fare quando decapitano in modo rituale, cioè affermando le procedure religiose di una guerra di religione dei cittadini americani, è una risposta durissima. Purtroppo abbiamo un'amministrazione americana che appunto tra il fare troppo e il fare troppo poco ha chiaramente scelto il troppo fare poco. Troppo poco. Io mi devo fermare qui, il dibattito come sempre aperto, ringrazio padre Giulio Albanese, voglio ricordare il direttore di Popoli Emissione, ringrazio il direttore del Foglio Giuliano Ferrara e Lorenzo Cremonesi, inviato per il Corriere della Sera in Iraq in questo periodo. Grazie davvero per essere stati con noi, con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Bescapè, Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento per noi è rinnovato domani alle 6.30. Vi lascio dopo la pubblicità ovviamente a Giovanni Minoli col Faccia a Faccia che torna e state con noi e ci sentiamo domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.